Dall'analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, emerge che l'insieme delle misure che abbiamo adottato iniziano a dare i primi incoraggianti risultati. Diminuisce l'incremento quotidiano dei contagi e tutto lascia prevedere che la prossima rilevazione del monitoraggio dovrebbe confermare la tendenza in discesa dell'indice RT, che è passato in 4 settimane da 1,7 a 1,4 a 1,2 a 1,08. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto l'1 e questo, come è noto, è un elemento essenziale per riportare il contagio sotto controllo. La situazione è molto seria in tutto il paese e nessuna sottovalutazione può essere ammissibile, però mi sembra giusto sottolineare dinanzi al Parlamento quella che è una verità ormai evidente. Le misure che abbiamo messo in campo come governo e come regioni stanno funzionando e le valutazioni dei nostri scienziati si stanno rilevando fondate. Per la stabilizzazione dei primi risultati positivi di cui ho parlato, c'è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi di una robusta cura di mantenimento. Lo dico con tutta la forza che ho dentro. Attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo. Non facciamoci illusioni. Se abbassiamo la guardia, la terza ondata è dietro l'angolo. Ecco perché con il prossimo DPCM dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose, anche per non vanificare il lavoro fatto nelle ultime settimane. Gli orientamenti del governo possono essere riassunti in 2 scelte di fondo. La prima, riconfermare il modello della classificazione delle regioni per scenario ed indice di rischio. Il sistema delle 3 zone, rossa, arancione e gialla, ha dato risultati che noi riteniamo soddisfacenti. I tecnici del Ministero, assieme a quelli dell'Istituto Superiore di Sanità e delle regioni, si stanno confrontando sui parametri. Ma l'impianto di fondo è corretto e sta funzionando. È uno strumento efficace che ci consente di agire rapidamente ed in modo proporzionale al variare delle condizioni epidemiologiche. Oggi, in un contesto di primo miglioramento, le regioni tendono verso il giallo. Ma qualora il quadro dovesse peggiorare, abbiamo già vigente uno strumento automatico che può subito riattivare misure più restrittive. Seconda scelta, per affrontare adeguatamente le festività natalizie e quelle di fine anno, le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche nel quadro di un coordinamento europeo che il nostro Paese ha promosso nelle ultime settimane. Questo coordinamento è sempre utile, ma diventa indispensabile se si pensa attività che si svolgono sui confini naturali tra stati diversi. In questo contesto appare necessario limitare il più possibile i contatti non indispensabili tra le persone. È per questo che durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali, vanno limitati gli spostamenti tra le regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni, e nei più importanti giorni di festa, il 25, il 26, il 1 gennaio, vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. È opportuno più in generale ridurre i rischi di diffusione del contagio connessi ai momenti di aggregazione durante le festività del Natale e del Capodanno. Si tratta di misure indispensabili se non vogliamo vanificare i primi segnali di miglioramento. Non sarà un Natale come gli altri, ma serve davvero il contributo di tutti per ridurre il numero dei contagi, quello purtroppo molto alto dei decessi, e per alleggerire la pressione sulle nostre strutture sanitarie. Abbiamo scelto consapevolmente di mantenere le lezioni in presenza nella scuola primaria e nella prima media anche nelle zone rosse. È una scelta che rivendichiamo e che si connette con la centralità che le attività scolastiche assumono nella vita delle nostre comunità. Con l'uscita di molte regioni dalle zone rosse è già in corso anche una ripresa delle lezioni in presenza per le classi seconda e terza media. Compatibilmente con l'evoluzione del quadro epidemiologico, è obiettivo del governo riportare gradualmente in presenza anche gli studenti delle scuole superiori.